بسم الله الرحمن الرحيم. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso, il clementissimo. I pilastri dell'Islam. Islam è la realizzazione in pratica quotidiana delle regole di condotta del codice di vita, che ha come sue fonti il sublime Corano, l'insegnamento orale del profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, e la sua sunna, pratica esemplare di vita. Il codice di vita islamico ha come sua struttura portante 5 adempimenti essenziali, che sono detti i 5 pilastri dell'Islam. In una tradizione raccolta dall'Imam al-Bukhari e dall'Imam Muslim, i due luminari nel firmamento della scienza del Hadith, si narra che il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, disse: si fonda l'Islam sopra 5, sottintendendo pilastri. La testimonianza che non c'è divinità tranne Allah e che Muhammad è l'apostolo di Allah. L'esecuzione del rito d'adorazione, il pagamento dell'imposta coranica, il digiuno del mese di Ramadan, il pellegrinaggio alla casa, obbligatorio per chi può farlo. I 5 pilastri dell'Islam sono gli atti di culto fondamentali della religiosità musulmana. Essi sono la struttura portante del codice di comportamento prescritto all'uomo da Allah, l'Altissimo. Le norme con cui questi atti di culto fondamentali vennero istituiti e le direttive generali per la loro esecuzione si trovano nel sublime Corano, mentre le regole dettagliate per la loro attuazione pratica si trovano nell'insegnamento orale del profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, e nella sua sunna.